edizione. 6:13 minuti, buona giornata da Anna Migliorati. Parliamo di cinema prima di entrare nel vivo delle notizie di oggi con le prime pagine dei quotidiani, anche se anche qui lo spunto lo troviamo comunque dal Corriere della Sera, che parlando di cinema oggi scrive: i flop eccellenti dei film in 3D, e ora ci prova il nuovo Titanic. Rose, you're the most amazingly astounding. Eccolo il film che negli Stati Uniti già ha avuto successo, arriva in 3D dopo la versione in 2D che già aveva sbancato parecchi anni fa, c'è da dire, nelle sale, e ci prova con il 3D. Ma due pagine intere oggi il Corriere della Sera le dedica a quello che definisce il fenomeno 3D, ma con i limiti sul mercato dei film tridimensionali. Il cinema tridimensionale ha subito alti e bassi, un punto interrogativo di troppo, molte spese, pochi incassi, il successo di Hugo, ma anche molti i flop eccellenti, così scrive quest'oggi il Corriere della Sera. Vedremo come andrà a finire con Titanic, anche perché vi raccontiamo intanto anche un po' di dati per parlare di cinema. È stato l'ennesimo weekend di ribasso per le sale italiane, che devono fare i conti con una flessione del 12% degli incassi. Al primo posto c'è stato tra i Titanic con 1,2 milioni di euro, ma ancora troppo pochi, dicono gli esperti. A seguirlo i fratelli Vanzina con Buona giornata, e poi Quasi amici, il cult francese ormai davvero campione di incassi. Ma se in Europa e negli Stati Uniti anche al cinema tira aria di crisi, non così in Cina, dove nell'ultimo anno gli incassi al botteghino sono aumentati del 35%. Il paese del dragone entro 10 anni si stima rappresenterà il più grande mercato cinematografico. Questo solo un piccolo assaggio, come sempre il nostro GR Spettacolo alle 8:20. Noi invece diamo uno sguardo ancora alle prime pagine dei quotidiani tra pochissimo. Prima edizione. Le prime pagine dei giornali cosa ci riservano questa mattina? I temi sono sostanzialmente tre, già vi anticipo. Uno è l'IMU, vale a dire la nuova tassa sulla casa, e il caos di cui vi parlavamo ieri mattina, paventato dai CAF, caos che potrebbe risolversi con le ultime decisioni. Poi il lavoro, da una parte la riforma del lavoro, dall'altro la disoccupazione che continua a salire e ormai macina record. E terzo tema che trovate un po' sulle prime pagine di tutti i quotidiani è il calcio scommesse, con la notizia che vi abbiamo dato ieri mattina proprio in queste ore, e il blitz scattato su ordine della procura di Bari. Ma guardiamola allora insieme le prime pagine dei quotidiani, a cominciare da Il Sole 24 Ore, che apre con le novità sull'IMU. L'acconto dell'IMU a giugno si pagherà con l'aliquota base, entro il 31 luglio il governo potrà però rivedere il prelievo. Allora, cosa si è deciso per la tassa sulla nuova casa? Tutte le scadenze del 2012 le riporta Il Sole 24 Ore. Entro il 18 giugno si pagherà l'acconto dell'IMU sulla base delle aliquote attuali, ma poi che succederà? Succederà che il 31 luglio, entro il 31 luglio, lo Stato potrà cambiare le aliquote base sulla base delle quali avremo pagato, e quindi il 30 settembre anche i comuni potranno approvare o modificare le loro aliquote. Dunque a quel punto potremmo aver pagato sulla base di aliquote che non saranno più quelle vere, e perciò il 16 dicembre verseremo un saldo dell'IMU con l'eventuale conguaglio sulla base delle aliquote reali, che potranno essere più basse o più alte. Questo l'accordo che si è trovato, e oggi ci sarà il voto definitivo, e questo è il tema che apre molti dei quotidiani, perché anche per La Stampa il titolo d'apertura oggi è IMU si paga con l'aliquota base, IMU a giugno l'aliquota base è Il Messaggero, La Repubblica IMU la prima rata sarà meno cara, che sostanzialmente è la traduzione di quanto abbiamo appena detto. L'acconto di giugno sulla casa sarà calcolato sull'aliquota base dell'ICI, così La Repubblica. A fianco a questa però anche la notizia della disoccupazione, che il Sole 24 Ore mette in taglio centrale. La disoccupazione sale al 9,3% e sulla riforma del lavoro il governo blinda il PDL PD verso un'intesa. Napolitano chiede misure per crescere. Quale prezzo per l'accordo? Il punto di Stefano Folli di quest'oggi. E per quanto riguarda il lavoro, sceglie questa invece come apertura oggi il Corriere della Sera. Lavoro spinta per l'accordo. Ieri l'intervista del segretario del PD Bersani sulla Repubblica, che chiedeva un accordo entro giugno. Oggi sul Corriere della Sera questa è l'apertura. Ecco l'esame oggi di Monti con i ritocchi del governo sui licenziamenti economici. Cosa scrive il Corriere della Sera? Cosa anticipa? Che cadrà, dovrebbe cadere almeno, questa pare l'intesa sulla quale, come scrive il Corriere della Sera, l'accordo sul quale l'intesa pare essere vicina, cade l'onere della prova a carico dei dipendenti se ci sono abusi. Oggi dovrebbero arrivare, leggiamo dal Corriere della Sera, gli ultimi ritocchi. In caso di contenzioso cadrà l'onere della prova a carico dei dipendenti se ci sono abusi. I leader spingono per un nuovo vertice con il Premier, ma la tensione si è allentata e il Premier cerca di convincere Bersani, scrive Francesco Verderami. Il metodo già applicato con successo, il professore non intende cambiare schema e si appresta a muoversi con Bersani, come già fatto quando i contrasti erano con Alfano, così almeno il Corriere della Sera. Voltiamo pagina, altra questione in primo piano, dicevamo quella del calcio scommesse. Allora l'apertura la vediamo dalla Gazzetta dello Sport. L'ammissione di Masiello, fatto apposta l'autogol. Calcio scommesse, l'ex giocatore del Bari arrestato con due amici. Racconto, ricevuto 250.000 euro da qualcuno vicino a Lecce. E il commento di Ruggero Palombo questa mattina su La Gazzetta dello Sport, così recita: serve la radiazione, un salto di qualità, ma in peggio. La nuova puntata del calcio scommesse arriva questa volta dalla procura di Bari. Il procuratore capo Antonio Laudati è sicuro: di mezzo c'è finita anche qualche società e per giunta di Serie A. Così questa mattina sulla Gazzetta dello Sport. Corriere della Sera: l'autogol venduto del capitano, ancora partite truccate in Serie A, il campione perde la faccia, basta indulgenze, pene più severe. Più o meno stesso tenore anche per il Corriere della Sera. La Stampa: Masiello, un autogol da 230.000 euro. Le cifre, vedrete, oscillano tra i 230 e i 300.000 euro, ma la sostanza non cambia. L'arrestato ammette, leggiamo ancora dalla Stampa: l'ho fatto per soldi. Fece autogol per soldi, arresti, nuove ombre sulla Serie A anche per il Messaggero. La Repubblica è retata nel calcio, al derby venduto anche un autogol, e qui la cifra è diversa, segnai per 300.000 euro, ma insomma il concetto davvero non cambia. Le immagini che vedrete sono un po' tutte quelle del famoso autogol, a questo punto famoso, al centro dell'inchiesta, con Masiello che si dispera davanti alle telecamere e probabilmente forse tanto disperato invece non era. Allora, questi dicevamo i tre temi principali, poi ci sono anche altre notizie sulle prime pagine dei quotidiani. Allora, il tempo per qualche segnalazione questa mattina ancora ce l'abbiamo. Allora cominciamo da il Messaggero a centro pagina, una notizia molto romana che non trovate sugli altri quotidiani in prima pagina, ma c'è naturalmente nelle pagine interne. La procura sul caso Orlandi: in Vaticano conoscono la verità, l'indagine sulla ragazza scomparsa nell'83 non sarà aperta, la tomba del boss De Pedis. E poi le richieste dei PM per un altro caso, ricorderete i presunti abusi nell'asilo di Rignano Flaminio, 12 anni alle mani. Questo quanto chiede il pubblico ministero. Il processo volge al termine, staremo a vedere naturalmente come finirà. Dal Sole 24 Ore un'altra notizia interessante questa mattina: la cancellazione del debito. Parliamo di crisi, parliamo di Grecia e di Germania, e Leonardo Maisano ci ricorda quando le cose erano all'opposto, quando la Grecia fu la Grecia a chiedere il conto alla Germania, la cancellazione del debito tedesco nel 53. Corsi e ricorsi della storia, ci ricorda Leonardo Maisano, ma allora era tutto al contrario. Ancora qualche curiosità invece dai giornali. Allora, una truffa online, ad esempio, ce la racconta oggi il Corriere della Sera, e a smascherarla è stata niente meno che il Quirinale. Cos'è successo? Che una società proponeva abbonamenti trappola, ma un avviso è stato spedito anche a Napolitano, e allora è stato il Quirinale a denunciare la truffa online. Erano convinti di scaricare software gratuiti, e solo quando sono stati bersagliati da una raffica di richieste di pagamento decine di migliaia di italiani sono resi conto di essere caduti in una trappola. 2 anni di abbonamento, 8 euro al mese, 96 euro anticipati ogni anno. Ma che è successo? Che vittima è stato anche Giorgio Napolitano, che ha fatto scattare invece le indagini. Altra curiosità dal fondo pagina della Repubblica: la corsa del padre al test del DNA sui figli. Sempre di più i padri che in Italia pare ne facciano ricorso. E allora, a raccontarci queste storie, queste odissee, il caso Fabio Tonacci questa mattina su La Repubblica. Fondo pagina invece della Stampa: allarme per il Cervino, ci dice La Stampa, si sta sgretolando. Caldo, frane, ritiro dei gracci e infiltrazioni d'acqua. Uno studio in Svizzera ad essere sempre più fragile, e anche il Cervino, e non solo le Dolomiti, dove di crolli se ne sono visti parecchi. I segnali d'allarme sono evidenti negli ultimi anni, sempre più frequenti. Si va dal ritiro dei ghiacci ai pezzi di roccia che si staccano dai suoi versanti, ed ecco che potremmo perdere il Cervino. Così l'allarme questa mattina sulla Stampa. Stampa, dove si parla anche di sport e di un altro allarme: il volley in crisi nera, moria dei club maschili in Italia, le star vanno all'estero, l'Italia deve ancora conquistare il passo olimpico. Ed ecco che parla Lucchetta, che è stato un grande della pallavolo italiano, e dice: in Italia ormai questo uno sport solo per donne, i club maschili stanno scomparendo. Così sulla Stampa. E noi allora però voltiamo pagina, perché come sempre non ci sono solo le prime pagine dei quotidiani, ma anche le notizie di prima edizione. Eccoci, grazie Peter Bescapè. Per cambiare argomento, allora, parliamo anche d'altro questa mattina. Primo approfondimento di prima edizione, perché da ieri nelle farmacie italiane è sbarcata una novità che fa e molto discutere: la pillola dei 5 giorni dopo, un farmaco di contraccezione d'emergenza. Allora, Alessandra Tedesco ha intervistato il ginecologo Enzo Spinelli, direttore sanitario della sezione romana dell'AIED, dell'Associazione Italiana Educazione Demografica. Meno male che è arrivato, era tempo che l'aspettavamo. Come mai l'Italia è arrivata così in ritardo rispetto ad altri paesi? Ma credo che sia, come sempre quando si guardano metodi contraccettivi, in particolare metodi contraccettivi di emergenza, un problema più politico che scientifico. All'arrivo di questo nuovo farmaco infatti si sono opposti soprattutto per esempio i medici cattolici, perché la considerano abortiva. Ma sì, questo è un vecchio problema che risale a diversi anni fa, quando fu commercializzata in Italia per la prima volta la cosiddetta pillola del giorno dopo, che era a base, e tuttora è a base, di levonorgestrella. Questa nuova pillola, a differenza della precedente, si può prendere fino a 120 ore, mentre levonorgestrella era indicato come tempo massimo 72 ore. Quindi in questo caso non si tratta di una pillola abortiva? No, assolutamente no, cioè ci sono dati scientifici che comprovano tutto l'opposto, cioè il meccanismo d'azione di questa nuova pillola contraccettiva d'emergenza è rappresentato da un'inibizione o un ritardo dell'ovulazione. Prima edizione. E un saluto a Daniele Biacchessi. Italia in controluce. Buongiorno e buona mattina a tutti da Daniele Biacchessi, ben svegliati. Questa è la prima edizione di Italia in controluce.

A quel punto è arrivata la polizia che lo ha catturato senza che opponesse resistenza. Pare che si tratti di un ex studente e questo lo avrebbe reso noto Yong Kimil, il pastore che 10 anni fa ha fondato la Oikos, questa università frequentata soprattutto da studenti di origine coreana. Al momento non so dire se il killer abbia lasciato volontariamente la nostra scuola o sia stato espulso, ha riferito sul sito web dell'università appunto il fondatore della Oikos. Per ora non si conoscono ancora le ragioni del gesto e si attendono gli esiti dell'interrogatorio che avverrà a breve. Ed è tutto per il momento. E grazie ad Adriana Fracchia. Come sempre la notizia la ritroveremo in GR24 e cercheremo di aggiornarvi ancora di più. Ma restiamo negli Stati Uniti ancora questa mattina, perché se domani c'è un altro, l'ennesimo appuntamento importante per la corsa nelle primarie americane per definire chi sarà lo sfidante di Obama, questa notte però una piccola svolta dal punto di vista tecnico c'è stato, e allora ancora l'occasione per noi per fare il punto. Andiamo negli Stati Uniti, Mario Platero. Sì, il conteggio aggiornato dei delegati di Mitt Romney è a quota 572, cioè esattamente la metà di quelli necessari, 1144, per potersi aggiudicare la nomination. Dunque, formalmente a metà strada, però è al di là, secondo me, della metà strada, perché bisogna tener conto, al di là dei numeri di sviluppi recenti che rendono a questo punto inevitabile la candidatura di Mitt Romney per la nomination repubblicana contro Barack Obama. Quali sono gli altri elementi aggiuntivi? Beh, intanto oggi ci saranno voti in Wisconsin, in Maryland, a Washington DC, nella capitale, District of Columbia. Voti importanti. Circa un centinaio di delegati complessivamente, la maggioranza di questi delegati andranno di nuovo a Romney, quindi di fatto con la chiusura della giornata di oggi posso scommettere che il candidato repubblicano si porterà ben al di là della metà. Soprattutto ci sono stati due sviluppi negli ultimi giorni che, come dire, rendono inevitabile la sua candidatura, perché Paul Ryan, il capo della maggioranza repubblicana alla Camera, un esponente della destra repubblicana, un esponente dei conservatori, amato dal Tea Party, il senatore Marco Rubio, di nuovo un senatore giovane eletto grazie al movimento dei Tea Party, si sono schierati con lui e non con Rick Santorum. Quindi un appoggio importante, come dire, certo. La rivendicazione di Santorum di rappresentare la destra, di rappresentare la base della destra del partito, che è quella che oggi conta di più, beh, è una rivendicazione che cade nel momento in cui ci sono due personaggi così importanti alla Camera e al Senato che si schierano con Mitt Romney. Quindi dal punto di vista istituzionale direi che Romney è in una botte di ferro. Naturalmente la strada è ancora lunga, ci sono ancora degli stati importanti, però gli stati importanti sono per esempio la California. In California ci sono 172 delegati e la California è uno stato che andrà quasi sicuramente, anzi sicuramente, a Romney. Dunque direi che i 1144 delegati necessari arriveranno prima, secondo me, della fine del processo delle primarie a giugno, e dunque vedremo, ma a quel punto credo che Santorum manterrà la sua promessa, il suo impegno, quello cioè di ritirarsi dalla corsa elettorale, di non arrivare fino alla convention. Ormai atteso, certo. Se per caso Romney dovesse raggiungere appunto la maggioranza necessaria per potersi aggiudicare la nomination, quella maggioranza di cui in questo momento siamo formalmente a metà strada, di 1144 delegati. Grazie Mario Platero. Esattamente metà strada, come dicevi, 572, ed era stata l'occasione per noi per fare allora ancora il punto. Naturalmente ti risentiremo alle 13.45 con America 24 e poi nelle prossime mattine, perché molto ancora ci sarà da dire. Nel frattempo per noi invece una pausa, per chi alle 6.43 minuti è già in viaggio. Poi parleremo invece di una vicenda tutta italiana, quella degli embrioni andati perduti per un guasto al San Filippo Neri di Roma. Prima edizione. E allora Allora, con l'informazione del mattino ripartiamo, dicevamo, dalla vicenda del guasto al centro di procreazione assistita del San Filippo Neri. Ieri sera sono arrivate quelle che dovrebbero essere le prime indicazioni della Procura di Roma, che parla di nessun rilievo penale per ora riscontrato. Insomma, potrebbe risolversi tutto solo in un procedimento civile, ovvero in un contenzioso circa i risarcimenti, in alcuni casi davvero milionari, che alcune delle coppie danneggiate potrebbero avanzare per avere perso con gli embrioni anche la speranza di diventare genitori. Questo, dicevamo, sarebbe l'orientamento della Procura di Roma, che per ora ha aperto un fascicolo senza indagati e senza ipotesi di reato, mentre ispezioni sono state annunciate dalla Regione Lazio. Il Ministero della Salute ha annunciato per oggi una sua ispezione. Altri controlli li hanno già fatti NAS della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla sanità. E allora io saluto questa mattina con noi Ignazio Marino, Presidente Commissione d'inchiesta parlamentare sulla sanità. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Allora, prima domanda d'obbligo, essendo arrivate queste indicazioni proprio ieri sera, la stupiscono quegli orientamenti della Procura di Roma? E peraltro c'è anche già una coppia milanese che ha fatto causa. Insomma, risarcimenti sì, rilievo penale no? Ma credo che un certo grado di prudenza in questo momento sia necessario, anche perché si tratta di un evento davvero drammatico, ma anche inusuale, anzi va sottolineato che è la prima volta che si verifica nel nostro paese, e non ci sono dati nella letteratura scientifica di eventi analoghi anche nel resto del mondo, quindi immagino che per una procura che svolga seriamente il proprio lavoro l'atteggiamento di prudenza prima di definire se c'è o non c'è un reato sia comprensibile, insomma. Le nostre regole saranno sufficienti per dipanare questa matassa proprio per questi motivi complessa? Qui bisogna essere chiarissimi. C'è un problema davvero molto grave. La struttura, il San Filippo Neri, come tutte le altre strutture che si occupano di procreazione medicamente assistita della Regione Lazio, hanno iniziato la loro attività molti anni fa, nel caso del San Filippo Neri nel 2004, hanno richiesto, come è obbligatorio per legge, un accreditamento da parte della Regione Lazio. La Regione, in tre amministrazioni successive, perché si sono succedute tre giunte nel tempo dal 2004 a oggi, non ha mai eseguito un sopralluogo per valutare se la tecnologia utilizzata, ad esempio in questo caso il sistema di allarme, fosse adeguato allo standard richiesto per un'attività così delicata. Così questo delicato. È un fatto davvero molto, molto grave, perché io ritengo, e lo dico da molti anni, che nel momento in cui una struttura sanitaria inizia un'attività, qualunque sia, da una nuova sala parto a un reparto di cardiochirurgia, dovrebbe esserci un controllo per verificare che il personale che lavora che sia in quella struttura e la tecnologia sono assolutamente adeguati. E questo non è avvenuto ed è un fatto evidentemente grave. Naturalmente che spettava alla Regione Lazio. È questo che secondo lei andranno a controllare oggi gli ispettori del Ministero della Salute, e che hanno controllato i vostri NAS, o qualcosa già sa di quello che hanno trovato? I nostri NAS probabilmente completeranno nella giornata odierna la loro ispezione, perché appunto gli aspetti da valutare sono diversi, dagli aspetti tecnici agli aspetti delle procedure. E in parte io le ho annunciato una carenza che è risultata evidente nelle procedure di verifica, di valutazione e di controllo. E queste sono le prime cose che le risultano. Esattamente questo è il fatto che la Regione Lazio non abbia mai svolto un sopralluogo per verificare i requisiti tecnici di accreditamento. In altre parole, è stata avviata l'attività con una notifica alla Regione che veniva avviata quell'attività, e in 8 anni non si è trovato il momento in cui la Regione verificasse: d'accordo, ha iniziato questa attività, hai i requisiti e la tecnologia adatta per svolgerla. Quindi quantomeno carenze nei controlli ci sono state. Sì, però certamente si capisce che quando le carenze nei controlli riguardano le attività sanitarie sono un aspetto preoccupante delle nostre regole e del nostro servizio sanitario regionale, perché dai controlli, dalla verifica delle tecnologie utilizzate dipende la salute e la qualità della vita delle persone. E in questo caso incidenti che si possono evitare. Grazie per essere stato con noi e grazie anche per queste anticipazioni. Allora, Ignazio Marino, Presidente Commissione d'Inchiesta Parlamentare sulla Sanità, buona giornata. Sull'argomento, grazie a voi. Sull'argomento naturalmente torneremo, lo faremo anche nell'edizione di GR24 di questa giornata. Nel frattempo, grazie come sempre a Peter Bescapè in regia, che resta con noi, a Viola Bottoni in redazione. Noi ci risentiamo tra pochissimo con le notizie di GR24. Buon martedì da Anna Migliorati.